La combinazione di questi fattori portò ad un aumento vertiginoso del costo della vita, erodendo il potere d'acquisto dei salari. Il capitale straniero, in particolare quello statunitense, aumentò la sua influenza nel settore industriale. A causa di tutto ciò, tra il 1954 e il 1961, il costo della vita crebbe del 20%, del 60% nel periodo 1961-1967, e poi, in seguito a speculazioni sfrenate, raggiunse il 136%. Tra il 1967 e il 1968 il PIL crebbe solo dello 0,3%, il potere d'acquisto dei salari diminuì del 47%. Queste difficili condizioni economiche e sociali portarono a crescenti tensioni e conflitti sociali e una oligarchia senza scrupoli si impadronì del potere per difendere i suoi poteri minacciati e speculare sulle svalutazioni che essa stessa aveva provocato, svendendo la sovranità del paese al capitale statunitense e cercando di soffocare con la repressione il malcontento popolare tramite lo stato di emergenza e la sospensione delle garanzie costituzionali. Si crearono così le condizioni per la nascita e l'ascesa del movimento di guerriglia urbana dei Tupamaros. In Uruguay esisteva un forte movimento sindacale. Uno degli esponenti di questo movimento era Raúl Sendic. Nato nel 1925 nella provincia di Flores, proveniva da una famiglia di proprietari terrieri di medie dimensioni. Aveva studiato giurisprudenza a Montevideo, diventando procuratore. Da attivista di spicco del Partito Socialista, di cui era membro del Comitato Centrale, nel 1958 rappresentò l'Uruguay al Congresso dell'Internazionale Socialista. Nel 1960 andò a Cuba, quindi decise di trasferirsi nella parte settentrionale dell'Uruguay per organizzare i braccianti agricoli, in particolare i tagliatori di canna. Nelle regioni di Paysandú e Salto Lungo, sulla riva del fiume Uruguay che segna il confine con l'Argentina, per migliori condizioni di vita e per l'espropriazione dei latifondi. Nel 1962 Sendic organizzò la prima marcia di protesta dei tagliatori di canna, accompagnati dalle loro famiglie. Percorsero più di 600 km a piedi, da Artigas a Montevideo. Ma le proteste pacifiche non fecero ottenere quasi nulla ai lavoratori, che continuavano a subire minacce e aggressioni. Durante la marcia, una donna, ad esempio, fu uccisa da un attacco di una squadra armata della CUT, la Confederazione dei Lavoratori dell'Uruguay, un sindacato giallo pagato dai ricchi proprietari terrieri e dai servizi segreti USA. Infatti, il primo mezzo adoperato dai servizi di sicurezza americani per spezzare la resistenza dei paesi considerati sotto la loro tutela è la creazione del sindacalismo giallo, che ha in particolare il compito di schedare sistematicamente i militanti operai e di smantellare le organizzazioni sindacali di sinistra. Esso opera in Uruguay attraverso la CUT, che è legata a sua volta agli UES, Istituto Uruguayano de Estudios Sindicales, diretto dall'americano Charles Wheeler, e all'IADS, American Institute for Free Labor Development, due organismi che sono stati creati congiuntamente dal sindacato americano AFL-CIO e dalla CIA. Quindi Sendic e altri attivisti decisero di abbandonare la via sindacale e parlamentare, scegliendo la lotta armata come mezzo per raggiungere gli obiettivi di giustizia sociale per i quali lottavano. Dopo un breve soggiorno in carcere, Sendic pubblica un articolo dal significativo titolo «Aspettando il guerrigliero». Nel gennaio 1963 Sendic fondò quindi il gruppo che sarebbe poi diventato il Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros, un'organizzazione che praticò la guerriglia urbana in Uruguay fino al 1973. Ascoltiamoci quindi l'inno dell'MLN Tupamaros, Estrella Roja. Estrella Roja de cinco puntas, amaneciendo la dignidad, a sangre y fuego por un futuro de libertad. Con la acción defendiendo la vida, oponiendo al odio el amor, a la sombra la luz combatiente, a la muerte la revolución. Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. En la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. El paso cierto, los ojos limpios, unidos todo por el valor. Los dedos firmes en los gatillos para hacer frente a la opresión. Pueblo armado que va a la victoria, a hacerse dueño de su porvenir, a ubicar su estatura en la historia y a luchar y vencer o morir. Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. En la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. In una lettera al giornale Epoca, pubblicata il 7 dicembre 1967, i Tupamaros scrivono: noi lottiamo a favore di soluzioni che sono estremamente urgenti, poiché ne dipendono la vita, l'educazione, la salute, il nutrimento, il diritto al lavoro di migliaia di uomini, di donne, di bambini e di vecchi. Per tutti questi motivi ci siamo messi al di fuori della legge. È la sola soluzione onesta quando la legge non è la stessa per tutti, quando la legge è contro il progresso del paese e quando le stesse persone che l'hanno creata si pongono impunemente al di fuori di essa ogni volta che gli fa comodo. La forza repressiva in Uruguay negli anni 60 era abbastanza debole. Le tre armi insieme comprendevano appena 12.000 uomini, male equipaggiati e male addestrati. Si diceva in quel periodo che l'esercito uruguaiano disponeva di una quantità di munizioni appena sufficiente per sparare a volontà per 2 minuti. La polizia era mal pagata e non rappresentava neanche essa un grosso deterrente. Il governo si rese certamente conto di questa relativa impotenza. Quindi, nel 1968, un agente statunitense, Dan Mitrione, installò il suo ufficio nella questura di Montevideo per risolvere il problema. Il nome Tupamaros deriva dal cacicco indio Tupac Amaru, che in Perù, con i suoi guerrieri, sequestrò il rappresentante del potere spagnolo, Arriaga, nel 1780. Il nome Tupamaros poi fu ripreso dai gauchos che risposero nel 1811 all'appello del generale Artigas, prendendo le armi per liberare l'Uruguay dall'occupazione spagnola. Come scrisse Maria Esther Giglio nel suo libro Guerriglia Tupamara, era necessario creare un detonatore che aprisse una via d'uscita, una strada rivoluzionaria, verso un cambio di strutture. Nello scegliere la strada della lotta armata pensarono che fosse l'unica via valida per togliere dal potere coloro che sono disposti a mantenerlo con le armi, quando lo considerano minacciato dalle classi che stanno opprimendo. Nonostante che Raoul Sendic facesse parte del Partito Socialista, i Tupamaros dichiararono che «Nessun partito può dirsi rivoluzionario se non si prepara alla lotta armata, e ciò deve avvenire a tutti i livelli del partito. Questo perché la lotta armata è il solo metodo che permette di affrontare la reazione con la massima efficacia in ogni fase del processo rivoluzionario, e ogni negligenza a questo riguardo può essere fatale. Basta ricordare il caso del Brasile e quello dell'Argentina, o comunque impedire di cogliere le possibilità di una situazione rivoluzionaria. Se non adempiano a questo fine specifico, gli apparati militari dei partiti di sinistra possono diventare gli strumenti meschini di cui essi si servono per regolare i loro conti politici. Dobbiamo condurre una lotta armata parallela che si proponga di indebolire progressivamente il nemico e di rafforzare al massimo le nostre forze in vista di creare le condizioni di uno scontro frontale. La lotta armata non deve essere per noi una bandiera, ma uno strumento. Non dobbiamo dimenticare neppure un momento che essa è al servizio della lotta politica e ideologica e che, a sua volta, questa lotta ideologica è finalizzata a mobilitare le masse e a farle partecipare attivamente al processo rivoluzionario. I militanti Tupamaros infatti avevano tutti un ideale comune, il socialismo, ma provenivano da settori diversi della sinistra e costituivano una specie di mosaico ideologico. In esso vi erano socialisti, comunisti dissidenti, cattolici progressisti, anarco-castristi, eccetera. L'MLN Tupamaros si sarebbe costituito come un gruppo organicamente indipendente dai partiti della sinistra uruguaiana. In diverse occasioni i Tupamaros affermano di appartenere a una corrente rivoluzionaria di indirizzo marxista. L'origine del movimento, che è nato da un partito socialista che si trovava in una fase di forte radicalizzazione, i suoi richiami alla rivoluzione cubana, gli attacchi costanti ai monopoli, al latifondo e al capitale straniero mostrano chiaramente quale sia la prospettiva in cui agiscono e si muovono i Tupamaros. Il 3 marzo 1969 il settimanale Rojo Vivo pubblica un'intervista ai Tupamaros in cui possiamo leggere: «È il regime capitalistico borghese che governa il paese ed è proprio questo regime che vogliamo rovesciare. Finché ci sarà un regime capitalistico, ci saranno dei capitalisti che faranno incetta delle ricchezze e che sfrutteranno il lavoro degli altri. Ci sono anche quelli che pensano di poter lavorare onestamente sotto qualunque tipo di regime, ma costoro, se sono veramente onesti, si troveranno certo meglio all'interno di un regime egualitario che dando il loro appoggio a un regime di grandi speculatori. Per tutte queste ragioni e perché il capitale non sia utilizzato abusivamente, ci proponiamo di socializzare le grandi imprese industriali e i latifondi. E perché non ci siano abusi per quanto riguarda gli alloggi e gli altri beni di consumo corrente fra le masse popolari, vogliamo che la loro distribuzione sia controllata rigidamente. In breve, vogliamo l'eliminazione di ogni forma di proprietà che possa essere oggetto di speculazione. Uguaglianza assoluta fra governanti e governati, nei sacrifici e nelle remunerazioni. È questo, esposto in modo sommario, il nostro programma. Ora è vero che gli mancano degli ismi, ma nel momento che il nostro è un vasto movimento con un ventaglio di militanti che va dai marxisti ai cattolici, preferiamo volentieri farne a meno. La struttura organizzativa dei Tupamaros ha la forma di un tronco di piramide. Alla base ci sono le nuove reclute che vengono messe alla prova. A livello immediatamente superiore si situano le cellule, che sono composte di un ristretto numero di persone, fra 5 e 7. Solo i capi di ogni cellula sono a volte in contatto fra loro. Anche all'interno di una singola cellula i tupamaros ignorano spesso la vera identità dei loro compagni, che sono indicati con un soprannome. Successivamente, quando l'organizzazione crescerà, verranno create le colonne. Ogni colonna riprodurrà la struttura del nucleo iniziale e sarà completamente autosufficiente, con proprie strutture logistiche e servizi come apparato di reclutamento, informazioni, servizi tecnici e medici. Inoltre, ai militanti venivano date precise istruzioni di mantenere il silenzio per 24 ore dopo l'arresto, per consentire ai loro compagni di prendere le dovute precauzioni e fuggire. La compartimentazione è il principale strumento di difesa dell'organizzazione. Senza di essa la guerriglia è impossibile. Deve inoltre essere vietato conoscere o far conoscere i veri nomi dei combattenti, i loro domicili e le basi dell'organizzazione. Sul ruolo delle donne nella guerriglia i Tupamaros affermano: all'inizio le donne partecipavano alle azioni militari solo occasionalmente e per compiere una determinata funzione. Attualmente prendono parte alla fase di preparazione, pianificazione ed esecuzione delle azioni, acquistando così un'esperienza militare globale, che permette di approfittare anche su questo piano delle loro condizioni personali. Per ottenere informazioni, per pianificare un'azione, la donna ha in certi casi maggiori possibilità di accesso a diversi luoghi. La sua meticolosità nella progettazione significa in molti casi un valido supporto. La polizia ha sempre avuto difficoltà a infiltrarsi nei Tupamaros. Ogni candidato che si sia proposto da sé o che sia stata l'organizzazione a prendere contatto con lui è l'oggetto di una lunga e minuziosa indagine e in seguito dovrà sottoporsi a tutta una serie di prove che accertino la possibilità di far parte dell'organizzazione. L'MLN Tupamaros ha sempre indicato la possibilità di una rivoluzione sociale in ambito continentale. In un suo documento possiamo leggere: il nostro movimento deve stabilire rapporti con altri movimenti nei paesi dell'America Latina in vista dell'azione di carattere continentale. Infatti, ad esempio, in una lettera del comandante Chato dell'ELN boliviano possiamo leggere: l'esempio dei gloriosi Tupamaros è un esempio per noi e per tutti i rivoluzionari. Cercheremo di imitarlo su terreni diversi, che tutti i combattenti dell'MLN ricevano l'affetto e l'ammirazione di tutti i nostri combattenti. Ed ora ascoltiamoci Cielo de los Tupamaros nell'esecuzione di Eduardo Falú. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. El cielo de los matreros, miren qué oscuro que está. Bien aigan las medias lunas que lo andan por alumbrar. Bien aigan las medias lunas que lo andan por alumbrar. Dicen que los chapetones ya nos cuentan redotao, y es que no han caído en que somos pocos pero bien montados. Con Venancio Benavides saldremo saggius ai vola, agata suena el clarín. Saldremo saggius ai vola, agata suena el clarín. Yo vi de un águila mora volando sobre un chilcal, era el alma cimarrona campeando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Il 24 dicembre 1962 fu fatta la prima azione spettacolare che fu poi attribuita ai Tupamaros e che suscitò la simpatia delle classi più povere. La notte di Natale, una ventina di giovani, di cui solo alcuni sono armati di rivoltelle, mentre gli altri maneggiano coltelli e bastoni, attaccano un camion che appartiene a un grande magazzino e ne distribuiscono il carico di polli e tacchini agli abitanti delle bidonville Aparicio Saravia. I membri di questo comando si presentano come il Comando Juvenil José Artigas e lasciano sul posto dei volantini dove si dice: i rivoluzionari partecipano al Natale dei poveri, e li invitano a formare in ogni quartiere dei comitati per la lotta contro la disoccupazione e contro il rincaro dei prezzi. Il 31 luglio 1963 alcuni ignoti, che furono considerati allora dei volgari delinquenti, svaligiarono il circolo di tiro svizzero Nueva Helvetia, da cui asportano 20 fucili cecoslovacchi modello 1943, 5 fucili 1908, 2 carabine calibro 22 e un fucile Martini e 30 fucili Mauser, purtroppo senza otturatore, ma che successivamente, grazie alle officine approntate dai Tupamaros, torneranno molto utili. In questa loro azione i Tupamaros non smentirono l'attribuzione a semplici delinquenti e non la rivendicarono. Questo perché erano nella fase più difficile, quella iniziale, di un gruppo guerrigliero e, date le loro scarse forze, non volevano attrarre su di loro l'attenzione del nemico. In seguito ad un incidente stradale, Sendik viene identificato come uno degli autori dell'assalto al circolo di tiro svizzero e ricercato dalla polizia. Nel marzo del 1964 è a bordo di un aereo da turismo che atterra a Meliglia e riesce a sfuggire per un soffio alla rete tesa dalla polizia. Arrestato a Monte Caseros in Argentina il 16 dicembre dello stesso anno, evade e raggiunge l'Uruguay a nuoto mentre si sta trattando la sua estradizione. Il 1 gennaio 1964 i guerriglieri assaltano il deposito della dogana di Bella Union e si appropriano di 11 fucili Mauser. Il 20 aprile, in un'armeria di Minas, recuperano 5 fucili di origine tedesca e 540 kg di esplosivo in una polveriera della Compagnia Nazionale dei Cementi. Il 25 aprile viene assaltata una banca e così i guerriglieri si impadroniscono di 500.000 pesos, circa 8.000 dollari. Dopo uno scontro a fuoco vengono arrestati dalla polizia 3 compagni. L'8 settembre 1964 il Consiglio nazionale del governo uruguaiano decide di rompere i rapporti diplomatici con Cuba. Vengono lanciate delle bombe incendiarie contro la Citibank e la Moore McCormick Line e alcune automobili del corpo diplomatico vengono date alle fiamme davanti al consolato degli Stati Uniti. Lo stesso giorno lo stabilimento della Coca-Cola è oggetto di un attentato e il giorno dopo sono presi di mira alcuni membri del governo che hanno votato a favore della rottura con Cuba. E poi vengono attaccate anche l'ambasciata del Brasile e una stazione radio. La polizia riesce ad arrestare alcuni guerriglieri. Tra questi ci sono il professore della scuola di belle arti Julio Marenales Sainz, l'ex studente Andrade Jiménez, pochi minuti dopo l'assalto a una banca. Viene poi arrestato anche l'ingegner Jorge Manera Lluveras, che ha fornito le armi per questa operazione e che trasporta nella sua automobile un vero arsenale. Davanti al giudice i tre accusati dichiarano che il denaro rubato era destinato ad aiutare i tagliatori di canna da zucchero e gli abitanti delle bidonvilles di Montevideo. Suscita sorpresa il fatto che tra gli arrestati ci siano professori, studenti e ingegneri. Nel dicembre 1964 fu deciso di firmare le azioni dell'MLN come Tupamaros. Ascoltiamoci ora A Desalambrar di Daniel Viglietti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Il 25 agosto 1965 una bomba distrugge la porta del magazzino della Bayer. Gli autori dell'attentato lasciano sul posto un volantino in cui compare per la prima volta la firma Tupamaros e dove si dichiara: morte agli Yankees, assassini nel Vietnam. Di fronte all'intervento criminale nel Vietnam, i popoli oppressi devono unirsi per schiacciare il loro nemico comune. La Bayer, impresa nazista, fornisce dei gas agli aggressori americani. Fuori i dittatori gringos, viva i Vietcong, viva la rivoluzione Tupamaros. Nel gennaio 1966 si tiene la prima conferenza nazionale dell'MLN, in cui venne elaborato un programma minimo e un regolamento, si scelsero i dirigenti, si tracciarono le principali linee tattiche e strategiche e fu stabilito che il partito, come organizzazione per la presa del potere, si costruisse nella lotta, specialmente nella lotta armata e durante il suo svolgimento. Il 2 febbraio 1966 un gruppo armato occupa la sede del teatro ambulante della Federazione dei Teatri Indipendenti. Dopo aver ridotto all'impotenza le guardie notturne, si impadronisce di 10 fucili Mauser e delle rispettive baionette e di 18 uniformi militari. Nei volantini lasciati sul posto si può leggere: «Il popolo confisca queste armi perché non siano contaminate. La terra è sempre nelle mani di 500 famiglie di ladri e di imbroglioni. L'articolo 3831 è tuttora in vigore. Manganellate e prigione per i lavoratori che chiedono solo di conservare i loro salari. Gli Stati Uniti si sono impadroniti del nostro oro e adesso si installano nella Banca della Repubblica». Il 13 maggio i Tupamaros assaltano una succursale della Caja Obrera. Con loro c'è anche un falso poliziotto. All'operazione partecipano 14 compagni, 12 uomini e 2 donne, 5 nel gruppo operativo e il resto in compiti di vigilanza, appoggio e inseguimento. Il 26 novembre un gruppo di Tupamaros penetra nell'armeria El Cazador, in pieno centro a Montevideo. Partecipano all'operazione 13 Tupamaros, 6 uomini e 2 donne, 5 nel gruppo operativo e 8 in quello di vigilanza e appoggio. Sopra l'armeria c'è una sartoria da dove vengono asportate anche 15 divise da poliziotto. Il bottino è di 20 armi lunghe, 50 pistole, 8.000 proiettili calibro 22 e 1.000 di altri calibri. Quando il comando se ne va, sono le 4 del mattino di una domenica in cui in Uruguay si tengono le elezioni. Il 22 dicembre un privato cittadino riconosce per strada una camionetta che è stata rubata poco prima ad un suo amico. Avverte la polizia che si lancia alla ricerca del veicolo. Inseguiti, i Tupamaros aprono il fuoco. La vettura si schianta contro un albero e una parte degli occupanti fuggono a piedi. Ma un giovane di 23 anni, identificato come Carlos Flores, che aveva coperto la fuga ai compagni, è ritrovato morto all'interno di essa. A partire dal 1967 i Tupamaros trasformeranno sistematicamente i veicoli rubati nelle loro officine clandestine allo scopo di evitare incidenti di questo tipo. A partire dal 1967 l'FBI statunitense è entrata negli organismi di repressione del continente latinoamericano. La AID, Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, controlla centralmente le operazioni USA di riorganizzazione delle forze repressive. Quest'ultima dipende direttamente dal Dipartimento di Stato e amministra tutti i cosiddetti aiuti elargiti dagli Stati Uniti in virtù della legge sull'assistenza all'estero del 1961. L'FBI lavora infatti in Uruguay, a stretto contatto con la polizia locale e trasmette le sue informazioni negli Stati Uniti per mezzo del BIR, Bureau of Intelligence and Research. Il 12 dicembre 1967 il nuovo presidente uruguaiano Pacheco Areco decretò la soppressione dei giornali di sinistra Epoca e del settimanale del Partito Socialista El Sol, come pure lo scioglimento di un certo numero di partiti politici di estrema sinistra, il MIR, il MRO, la Federazione Anarchica Uruguayana, il Gruppo Indipendente Epoca, il Movimento di Azione Popolare Uruguayano e il Partito Socialista. Pacheco Areco, nato nel 1919, ex pugile dilettante, ex giornalista, era sconosciuto alla maggioranza della popolazione quando salì al potere nel dicembre 1967. Una volta salito al potere, però, dimostrò un forte accanimento nella difesa degli interessi dell'alta borghesia. Il 13 giugno 1968 venivano decretate le misure eccezionali. La Costituzione uruguaiana prevedeva l'adozione di questo regime nel caso di avvenimenti gravi e imprevisti, di un attacco esterno o di disordini interni. In realtà il pretesto fu dato dalle manifestazioni degli studenti che protestavano contro l'aumento del prezzo dei biglietti degli autobus per le scuole e da alcuni conflitti scaturiti da rivendicazioni sindacali che si avviavano comunque ad una soluzione. Queste misure furono mantenute quando le cause che le avevano provocate erano scomparse e restarono in vigore dal giugno 1968 al marzo 1969 e dopo un breve periodo di ritorno alla legalità dal giugno 1969 in poi. Ma le misure eccezionali permisero al potere esecutivo di cercare di spezzare le lotte sindacali. La legge prevedeva che nel quadro dell'adozione delle misure eccezionali i cittadini potranno essere sottoposti all'autorità e alla giurisdizione militare, allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi indispensabili alla vita del paese. Questa legge è servita da pretesto per la militarizzazione dei dipendenti della maggior parte degli organismi statali e privati. In conseguenza di queste misure, 5.000 operai saranno arrestati, maltrattati e rinchiusi nelle caserme. Si conclude qui questa prima puntata sui Tupamaros. Alla prossima!